il nostro problema è che tutti gli esperimenti di cosmologia che facciamo ci dicono che la materia che noi vediamo, la materia ordinaria, è veramente pochi per cento della massa totale dell'universo. La legge di gravitazione universale ci permette di avere un'idea della massa dell'universo. Contiamo le galassie che vediamo, facciamo delle stime della loro massa, eccetera, eccetera, e quello del quale ci rendiamo conto immediatamente è che c'è quella che una volta si chiamava la massa mancante e che adesso si chiama materia oscura. In verità la materia oscura, a questo punto abbiamo capito che è divisa in due categorie diverse, che prendono due nomi diversi, anche se ancora una volta non sappiamo di che cosa siano fatte. Una è la materia oscura propriamente detta, che dovrebbe essere fatta di nuovi tipi di particelle, cioè particelle che non sono ancora state scoperte. E una seconda frazione molto importante dal punto di vista della massa dovrebbe essere quella che si chiama energia oscura. Qualcuno la chiama anche quintessenza, per andare a rivangare antichi concetti filosofici ancora aristotelici, ma diciamo, per dirla in parole povere, noi brancoliamo assolutamente nel buio rispetto alla natura di queste due grossissime componenti dell'universo, e quindi speriamo che un satellite che ha le prestazioni di GLAST possa dirci qualche cosa in più. In particolare si spera di riuscire a vedere la firma, diciamo così, del decadimento di una particella particolarmente cicciona, che non è mai stata fatta negli acceleratori perché appunto troppo massiva, che potrebbe essere uno dei componenti della materia oscura. GLAST, dunque, l'Italia partecipa, oltre che con l'Agenzia Spaziale Italiana, con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, attraverso varie sezioni. Insomma, una partecipazione importante in questo progetto. Molto importante. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha finanziato in parte con propri fondi, in parte con fondi ottenuti dall'Agenzia Spaziale Italiana, la costruzione di una grossa frazione dello strumento. In effetti lo strumento per rivelare raggi gamma è uno strumento estremamente sofisticato, che è stato fatto in diverse sezioni dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, coordinate dalla sezione di Pisa, dal mio collega Ronaldo Bellazzini. Quando potrete capire che GLAST sta facendo correttamente il suo lavoro? Quando comincerete a immagazzinare delle informazioni? Ma ci vorranno 2 o 3 settimane. Gli strumenti che vanno nello spazio devono prima passare un momento di quiete, nel quale devono, come si dice tecnicamente, degasare, cioè devono lasciare uscire tutto il gas residuo che hanno all'interno e mettersi in equilibrio totale con l'ambiente esterno, che dove c'è il vuoto cosmico, e quindi lo strumento diventerà totalmente operativo, diciamo, nell'ordine di un paio di mesi. E per un periodo complessivo? Lo strumento non ha scadenza, quelli che si chiamano consumabili a bordo, quindi diciamo il minimo che noi ci aspettiamo è 5 anni, ma pensiamo che possa tranquillamente andare avanti per 10. Magari diciamo anche che l'Italia è impegnata in primissima fila nell'astrofisica delle alte energie, perché noi siamo abbastanza fortunati ad avere anche un nostro satellite in orbita in questo momento, che fa lo stesso lavoro che farà GLAST, anche se più in piccolo, perché si tratta di uno strumento di dimensioni inferiori, che si chiama Agile. Abbiamo festeggiato pochi giorni fa 1 anno in orbita e appunto giovedì e venerdì ci vediamo all'ESRI in Frascati per presentare alla comunità scientifica i risultati del primo anno del nostro satellite. Quindi veramente l'Italia ha una marcia in più in questo momento nell'astrofisica delle alte energie.